lì col profumo del Pelerios, sto lasciando Lidia a Mosca mentre tu mi stai aspettando. Lidia non conosce l'italiano, ha imparato due parole, dice sempre io ti amo. Lidia, se abitassi più vicino, pensa un po' che bel casino, ed intanto prendo il volo sempre più lontano. E non si vede più Mosca sotto le nubie nascosta. Sarà solo un'illusione per chi compra un'emozione col profumo del Beriosca.